Cari ascoltatori, sono le 13, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento di metà giornata con l'informazione. Allora, come sempre, le notizie, oggi anche qualche novità che vi presenterò in corso d'opera, qualche novità all'interno delle novità del nostro palinsesto, ma adesso andiamo subito con i titoli. Disastro in Costa Azzurra, si cercano ancora 3 dispersi, crescono le polemiche sui meccanismi d'allarme. Migranti, il viaggio non si ferma, trovato su una spiaggia di Kos il corpo di un bambino. War Games nei cieli della Siria, Ankara denuncia 2 suoi F-16 illuminati dai MiG-29 russi. Nobel per la medicina, un trio di scienziati premiata la lotta alle malattie del sud del mondo. British shock per il rugby, cacciati dai mondiali di rugby, gli inglesi fanno i conti con i danni. Eccoci dunque, ancora un buongiorno da Gigi Donelli, oggi al microfono, da Alessandro Marco Tugli in assistenza, e partiamo direi subito con quella che è la cronaca che ci riporta dunque in Costa Azzurra. Fango, detriti, mentre ancora si cercano dei dispersi, almeno 18 attualmente quelli confermati invece i morti. Il servizio. In Costa Azzurra si continua a lavorare per liberare strade e piani bassi delle abitazioni invase da fango e detriti. Per tutta la notte sono proseguite anche le ricerche dei dispersi. Sono 4, uno ad Antibes, 2 a Cannes, 1 a Mandelier-la-Napoule. Il bilancio delle vittime resta fermo a quota 17. Mercoledì verrà decretato lo stato di emergenza per le zone colpite dal violento nubifragio che sabato sera in appena 3 ore ha scaricato oltre 18 centimetri d'acqua. Le case senza elettricità. Sono ancora 5.000 altrettanti gli sfollati. Oggi le scuole resteranno chiuse. Secondo le prime stime delle autorità locali, i danni ammonterebbero almeno a 500 milioni di euro. Non mancano anche le polemiche sull'allerta meteo lanciata prima dell'alluvione. La perturbazione in arrivo sarebbe stata sottovalutata, sostiene il presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime, secondo il quale sarebbe stato meglio decretare un'allerta rossa e non arancione, come invece è avvenuto. Sono tutti rientrati in Italia. Intanto i 5 treni bianchi dell'unità ALSI, carichi di pellegrini e malati di ritorno da Lourdes, rimasti bloccati per ore dal maltempo in Costa Azzurra. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco, proprio poco fa una conferma, dunque i morti sono 18 perché i dispersi sono scesi a 3, nel senso che in mattinata è stato trovato il corpo di un uomo di circa 60 anni, trovato oggi in un parcheggio di Mandelieu. Dunque 18 vittime confermate, 3 i dispersi, naturalmente a distanza di ormai molte ore dal disastro del fine settimana. Le immagini sono state rilanciate in tutto il mondo. Dunque, mentre si cercano ancora le 3 persone disperse, continuano i lavori e probabilmente continueranno per parecchio tempo. Pulizia delle strade di Cannes. Il presidente della Protezione Civile delle Alpi Marittime, Christophe Vizentin, intervistato da Valeria Grandi. Per quanto riguarda l'elettricità, stiamo riparando i guasti e sarà ripristinato ovunque entro stasera. Il grosso del lavoro di oggi è dedicato a raccogliere l'abbigliamento e i mobili per le persone che hanno perso tutto. Raccogliamo ciò che serve e distribuiamo le cose in modo da permettere alle persone di passare fuori casa un'altra notte. E per le strade c'è ancora acqua? No, aujourd'hui il n'y a plus d'eau dans les rues. No, non c'è più acqua, ma è rimasto molto fango. Ci sono le auto sulle strade e molti rifiuti. Serviranno giorni, settimane, forse qualche mese per ripulire tutto, spostare le macchine ed eliminare tutto ciò che l'acqua ha travolto e trasportato per la città. Questa dunque la situazione, mentre è tornato a splendere il sole come in diverse zone appunto anche della costa italiana, naturalmente collegata geograficamente con quello che è il terreno settentrionale. Ma cambiamo scena, andiamo a nord. Sono William Campbell, il giapponese Satoshi Omura, la cinese Yu Yu Tu hanno vinto il Nobel per la medicina, tutto dedicato a chi lotta contro i parassiti. The Nobel Assembly at the Karolinska Institute has today awarded the 2015 Nobel Prize in Physiology and Medicine, with one half jointly to William C. Campbell and Satoshi Omura, and the other half to Yu-Yu Tu. E così si rinnova l'annuale appuntamento che vede l'assegnazione dei premi Nobel. Il primo assegnato oggi è quello per la medicina, andato a due uomini e una donna, l'irlandese William Campbell e il giapponese Satoshi Omura, per le ricerche contro i parassiti responsabili di infezioni intestinali, la giapponese Yu-Yu Tu per la sua scoperta di una nuova terapia contro la malaria. Domani verrà assegnato il Nobel per la fisica, mercoledì quello per la chimica, la settimana si concluderà il 12 ottobre con il premio per l'economia. Riflettori puntati soprattutto sul Nobel per la letteratura, che verrà assegnato giovedì, e quello per la pace di venerdì, sui quali si scatenano come sempre le maggiori speculazioni. Per il Nobel per la pace il tabloid tedesco Die Bild ha fatto addirittura il nome della cancelliera tedesca Merkel, ma si parla anche del governo colombiano e le FARC prossime alla firma di un accordo di pace, dei protagonisti dell'intesa sul nucleare iraniano, ma anche di Papa Francesco, del ginecologo congolese Denis Mukwege. Ogni premio Nobel è accompagnato da un assegno di 8 milioni di corone, circa 855 mila euro, da condividere nel caso di premi multipli. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco, naturalmente il Nobel per la pace è spesso al centro delle curiosità, a volte con degli esiti anche, come dire, sorprendenti, e che poi fanno i conti in un tempo o nell'altro con la storia. Di sicuro quello per la medicina, come avete sentito, è rivolto in qualche modo al sud del mondo, nel senso che anche le malattie fanno parte, la mortalità, naturalmente la mortalità infantile fa parte di quell'insieme di condizioni che poi creano poi le partenze, le fughe, e questo ci porta di nuovo all'attualità di oggi. Nei giorni scorsi, per settimane, abbiamo avuto in prima pagina la grande fuga dei siriani, non solo dal sud. Ora l'attenzione si sposta altrove, ma non è che questo sia finito. Allora io direi di sentire subito un primo servizio di cronaca, poi aggiungiamo alcune notizie. Il corpo di un bambino tra i 3 e i 5 anni è stato trovato sulla spiaggia dell'isola di Kos dalla guardia costiera greca. Il bimbo indossava una maglietta rosa e pantaloncini blu. Sarebbe annegato a pochi metri dalla costa e portato a riva dalla corrente. Non è chiaro a quando risalga la morte. Solo nell'ultimo weekend la guardia costiera greca ha condotto 57 operazioni nell'Egeo, salvando 1743 migranti. Intanto continuano gli arrivi anche via terra. Ieri in Ungheria sono entrati circa 6.000 tra migranti e profughi, incuranti delle norme penali più severe entrate in vigore da metà settembre. Secondo le autorità ungheresi, dall'inizio dell'anno i profughi che hanno attraversato il confine sarebbero oltre 310.000. Carlo Terzano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete sentito dunque i numeri, tutt'altro che conclusa questa fase dell'emergenza migranti. Intanto dalla Germania, nel 2015, secondo la Bild, la Germania sarà raggiunta da 1,5 milioni di richiedenti asilo. Sono stime istituzionali contenute in un rapporto segreto pubblicato appunto da Bild. Se dovessero essere raggiunti dalle famiglie, la cifra salirebbe a 7 milioni. Queste le stime. Le ultime cifre pubblicate dall'istituzione, gli arrivi previsti quest'anno erano indicati in 800.000. Insomma, un'enorme disparità di numeri, si parla del 100% come minimo in più secondo questo rapporto. Sempre in questo tema, l'Unione Europea poco fa comunica ai paesi terzi che non hanno accordi di riammissione con l'UE e con i suoi stati membri dovranno comunque accettare il rimpatrio dei loro cittadini se vorranno usufruire degli aiuti europei. Così fonti della presidenza UE, tradotto: se non accettate di riprendere quelli che al di fuori delle quote accettate dall'Unione Europea vi rimandiamo, il conto sarà fatto anche nel conto globale, appunto, che è quello degli aiuti di cui vi ricordo l'Unione Europea è la prima donatrice a livello mondiale. Ancora direi che i temi si concatenano uno con l'altro, perché l'attualità ci porta in Siria. Due jet da combattimento F-16 turchi si sono trovati ieri per 5 minuti e 40 secondi, questo nel comunicato, nel mirino dei radar di un caccia MiG-29 di provenienza non identificata, dunque probabilmente siriano o russo visto il modello, durante il volo di pattugliamento alla frontiera con la Siria. Questa è una nota dell'esercito di Ankara. Sabato notte un jet da combattimento russo aveva violato lo spazio aereo turco e dunque ovviamente NATO, sempre nei pressi del confine con la Siria. Su questo tema è un ultimo aggiornamento. Mosca dichiara questa mattina, è un scenario che si muove rapidamente, comunica questa mattina di essere pronta ai contatti con l'esercito siriano libero, le SL. Aggiunge però di ritenerlo attualmente un gruppo fantasma. Insomma, polemica a distanza. Gli americani avevano accusato la Russia di colpire quelli che sono, diciamo, i ribelli sostenuti dal Pentagono. I russi rispondono: siamo pronti a parlare con loro, ma dove sono? Prima delle prossime puntate, intanto, i militanti dell'ISIS hanno fatto saltare in aria l'Arco di Trionfo di Palmira, una importante, celebre vestigia romana, e sentiamo i dettagli nel servizio. Era stato minato alcune settimane fa, ieri è stato fatto saltare in aria l'Arco di Trionfo, simbolo dell'antica città siriana. Lo ha comunicato il direttore delle antichità di Damasco. Anche l'anfiteatro e il colonnato esterno sarebbero stati riempiti di esplosivo. Non è la prima volta che il sito archeologico di Palmira viene colpito dalla furia distruttrice dello Stato Islamico. L'area venne conquistata lo scorso maggio. Ad agosto era stato raso al suolo il Tempio di Bel e decapitato l'archeologo custode del sito, Khaled Assad. Nel frattempo, circa 3.000 guerriglieri dell'ISIS e del gruppo jihadista di al-Nusra sono arrivati in Giordania dalla Siria. A provocare la loro fuga è stata la paura di un'avanzata dell'esercito siriano e dei raid russi lanciati da Putin. Livia Liberatore, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine chiudiamo davvero questa grande pagina di notizie dall'estero, non solo, anzi da una parte specifica che è appunto l'Anatolia, la curva meridionale del Mediterraneo, da Ankara. Mentre il presidente turco si appresta, o meglio c'è già da ieri pomeriggio a Bruxelles, arriva una nota del suo ministero della difesa in cui dice: sono oltre 2.000 i membri del PKK curdo uccisi dalle forze di sicurezza turche dal 22 luglio scorso, dopo la rottura della tregua in vigore dal 2013. 2.000 persone da 22 luglio a oggi, questa è una fonte ufficiale del governo turco. Torniamo invece a casa nostra e parliamo di riforme con Elisabetta Fiorito. Passato lo scoglio dell'articolo 2, quello sul Senato non elettivo, l'aula di Palazzo Madama riprende le votazioni alle 15 per passare all'articolo 3. Il leghista Roberto Calderoli non rinuncia all'ostruzionismo e minaccia di bloccare i lavori parlamentari con il gambero, una sua nuova invenzione. Intanto i numeri al Senato ci sono e Denis Verdini continua a ribadire l'appoggio alla riforma, anche se il suo capogruppo Lucio Barani se la dovrà vedere con l'ufficio di presidenza, che deve decidere a momenti la sospensione dopo il gesto intrapreso in aula nei confronti della collega grillina Barbara Lezzi. Interviene il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, che spera in una sospensione con decorrenza immediata insieme a Vincenzo Danna. Non è accettabile, dice l'esponente del Movimento 5 Stelle, che si consenta loro di scontare le sanzioni tra un mese, permettendogli di modificare indisturbati la Costituzione. Oltre al merito, insomma, la battaglia è sempre sui numeri. Elisabetta Fiorito, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma. Riforme avanti dunque tra canguri e gamberi, abbiamo sentito anche di questa ulteriore novità. Intanto invece punti sull'economia ce le fa il nostro Vincenzo Miglietta. Un'area, quella dell'euro, che continua a mostrare segni di debolezza. La ripresa c'è ma stenta a cambiare marcia per diventare strutturale. A settembre l'indagine tra i responsabili degli approvvigionamenti fa segnare infatti una flessione a 53,6 punti dai 54,3 di agosto. Il dato definitivo comunicato dalla società di ricerche Market Economics è più debole dei 53,9 punti indicati nella stima iniziale. Il valore resta comunque sopra la soglia limite tra crescita e calo dell'attività dei 50 punti. Stesso andamento per il nostro paese, dove il relativo indice PMI è calato al minimo da 6 mesi, 53,4. Rallentano sia il settore dei servizi che il manifatturiero. Resta comunque confermata la fase di espansione per il nono mese di fila. L'indebolimento del tasso di espansione di settembre, commentano però dai mercati, aumenta il rischio che la crescita perda ancora più vigore nel quarto trimestre, rendendo probabile che la BCE ricorra ulteriormente al quantitative easing. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora, mentre sicuramente dalle 14 in poi parleremo parecchio della serataccia del Milan ieri sera, insomma non è l'unica grande squadra a piangere, ci sono gli inglesi, l'Inghilterra tutta, che si è organizzato un mondiale di rugby e l'esito è stato davvero pessimo. Pessimo perché sono stati cacciati per la prima volta addirittura prima dei quarti di finale e perché probabilmente la cosa costerà parecchio. Sentiamo. Una disfatta targata Galles e Australia, due scogli contro cui è andata a naufragare l'Inghilterra del rugby. Non era mai successo che la squadra padrona di casa uscisse dai mondiali nella fase a gironi e in assoluto non era mai capitato che gli inglesi non raggiungessero almeno i quarti di finale. Ed ecco il buco nero, accompagnato perfino da una serie di preoccupazioni in campo finanziario. Pazienza per i singoli giocatori che avrebbero guadagnato 100.000 sterline a testa in caso di vittoria finale. In realtà è stato calcolato che la depressione post sconfitta potrebbe incidere per un meno 0,15% sul mercato azionario inglese e che per l'economia locale c'è addirittura la prospettiva di perdere fino a 3 miliardi di sterline, compresi i mancati introiti di pub, ristoranti e negozi sportivi che pregustavano incassi in continua ascesa se Rob Shaw e i suoi compagni avessero proseguito il torneo fino in fondo. Un disastro anche per ITV. L'emittente si è aggiudicata i diritti della Rugby World Cup per il 2015 e il 2019 pagandoli 60 milioni di sterline e teme di rimettercene quasi un quinto in termini di mancati introiti dalla pubblicità. Senza l'Inghilterra in lizza, addio audience da oltre 10 milioni di telespettatori e prezzi degli spot giù del 40%. È come subire un placcaggio devastante. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E chissà quanto costerà alla Volkswagen quello che ormai conosciamo tutti col nome di Dieselgate. Per valutarlo ci vorrà tempo. Di certo lo scandalo non ha effetto o effetti sull'attuale classifica annuale dei brand globali pubblicata ogni anno da Interbrand. Sentiamo il servizio. Primo posto per Apple, secondo per Google, terzo Coca-Cola. Nella classifica dei 100 brand globali a maggiore valore economico c'è largo spazio per il settore tecnologico. Microsoft è in quarta posizione, Samsung alla settima, Facebook alla 23esima. American Express è prima tra i servizi finanziari al 25esimo posto, poi JP Morgan e Goldman Sachs. La classifica stilata da Interbrand analizza tre parametri: la performance dei prodotti legati al brand, il suo ruolo nella scelta da parte del cliente e la sua forza competitiva. Il brand automobilistico a maggior impatto economico risulta Toyota al sesto posto, seguito da BMW e Mercedes-Benz in undicesima e dodicesima posizione, presente anche Volkswagen al 35esimo posto. Incerto l'impatto sul brand del recente scandalo Dieselgate. Tutto dipenderà dalla rapidità e trasparenza con cui l'azienda reagirà, ma per sapere se avrà fatto bene bisognerà aspettare la classifica dell'anno prossimo. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelli. Dunque i titoli: disastro in Costa Azzurra, 18esima vittima confermata, sono ancora tra i dispersi, polemiche sui meccanismi d'allarme, migranti, il viaggio non si ferma, trovato su una spiaggia di Kos il corpo di un bambino morto appunto affogato mentre cercava di raggiungere la Grecia. War Games nei cieli siriani, Ankara denuncia due suoi F-16 illuminati dai MiG-29 russi. Il Nobel per la medicina premiata la lotta alle malattie del sud del mondo. E ora cambiamo pagina. Con Carlo Marroni facciamo il punto invece su quella che è l'apertura del sinodo. Allora Carlo, buongiorno innanzitutto. Apertura questa mattina, quali le cose, le novità che trapelano da questo importante appuntamento? Ma per ora diciamo l'assemblea è pubblica, quindi viene trasmessa, si può vedere e partecipare come giornalista, vedere da ora in poi più o meno sarà chiusa, anche se con delle modalità di comunicazione esterna. Stamattina ha parlato il Papa in saluto e poi hanno parlato diciamo i responsabili di questa assise che durerà 3 settimane. La novità di oggi, che poi non è una novità ma è diciamo l'atteggiamento del Papa, ha detto: Papa, per l'ennesima volta parlate con franchezza, dite quello che pensate anche se io sono presente. Questo non è un Parlamento, qui non si deve arrivare a delle mediazioni, dei patteggiamenti e tantomeno dei compromessi. Questo vuole dire due cose sostanzialmente. Primo è che è importante che ciascuno esprima la propria opinione, proprio perché sui temi chiave, quella della famiglia è il tema decisivo di questo pontificato e forse della Chiesa del futuro. L'altra perché comunque sottende che è il Papa poi alla fine che decide, non è questa è un'assemblea consultiva di cui il Papa terrà conto, ha già detto in maniera diciamo decisiva, però poi la decisione è del Papa, unica e diciamo incontestabile. Questa è la cosa importante, è il messaggio politico pastorale all'inizio di questa assise. Grazie a Carlo Marroni, grazie di essere stato con noi. Naturalmente aggiornamenti ne avremo parecchi, visto che, come avete sentito, sono giornate che iniziano soltanto oggi, dopodiché Papa e Vescovi salutano, tra virgolette, i giornalisti, si mettono al lavoro e seguiremo con Carlo Marroni, con Katia Caramelli, gli aggiornamenti e le informazioni che arrivano dall'interno di questo concilio. Dunque, noi invece cambiamo decisamente luogo e tema, perché abbiamo sentito gli aggiornamenti economici nel nostro giornale radio nella prima parte. Adesso invece ci colleghiamo con la nostra Livia Zancaner, che è andata un po' a controllare sul terreno, perché si parla molto di questi dati, dopodiché a volte, come dire, abbiamo più statistiche che voci. Livia Zancaner, innanzitutto, dove sei questa mattina? Buongiorno Gigi, allora sono a IMO Milano 2015, cioè la fiera mondiale degli utensili delle macchine industriali, degli utensili che si tiene ogni 6 anni a Milano, altrimenti negli altri anni viene realizzata in Germania. Ecco, allora, Italia-Germania, dunque il grande manifatturiero che si ritrova. Se non si vendono queste macchine il segno è brutto, se si vende, se crescono i dati, insomma vuol dire che le cose si muovono. Questo in estrema sintesi, qual è l'aria che si respira innanzitutto lì oggi? Allora, innanzitutto bisogna dire che è il primo giorno. Io ho parlato con una serie di aziende, mi hanno detto che è difficile avere oggi già un'idea, ma oggi a dire il vero l'affluenza non è elevatissima, il picco è atteso tra giovedì e venerdì. Allora, per dare un'idea, sono previsti 150.000 visitatori, ci sono 12 padiglioni per 120.000 metri quadrati, 1.600 imprese costruttrici, il 12 in più rispetto all'edizione precedente qua a Milano, quindi nel 2009. Il 60% sono stranieri, da quello che ho potuto vedere io stamattina sono molti giapponesi, coreani, ma anche americani, e presente anche una delegazione di Taiwan. Per quanto riguarda il sentiment, parlando appunto con le imprese che arrivano da tutta Italia e dal mondo, allora la caratteristica principale per quelle italiane che esportano più del 50%, anche 70-80% all'estero, allora dicono che ci sono segnali di ripresa, anche se lievi, e sono tutti fiduciosi. Ho chiesto che tipo di ritorno hanno da questa manifestazione, dicono, la risposta più o meno comune è che pochi ritorni in realtà in termini di business vero e proprio, cioè si firmano pochi contratti, i ritorni sono più che altro in termini di visibilità, ma soprattutto mi hanno detto, siamo qui per dare un segnale ai nostri concorrenti, per dire noi ci siamo sul mercato. Ecco, tutto questo naturalmente, immagino che ci sia anche un elemento dedicato all'innovazione tecnologica, alla presentazione, ma c'è anche quello che è, come dire, consuetudine in questo tipo di incontro, il momento istituzionale. Stamattina ci sono state le aperture e le presentazioni. Sì, stamattina c'è stata l'inaugurazione, è arrivato anche un messaggio del Premier Matteo Renzi, il commissario Emo Milano 2015 ha parlato proprio del settore e dice, le stime parlano di una crescita costante degli investimenti fino al 2017 grazie proprio al sistema economico positivo. Presente il numero uno degli industriali Giorgio Squinti, ha detto che il settore è riuscito a superare la crisi grazie proprio anche alla capacità delle aziende di confrontarsi col mercato mondiale. Da Squinti è arrivata anche una dichiarazione sul taglio delle tasse sul lavoro anticipato al 2016, come ha detto ieri il Premier, e lui dice siamo ben contenti quando ci tagliano le tasse, vediamo se lo faranno. E poi l'annuncio del sottosegretario all'economia Zanetti, il governo sta valutando la possibilità di introdurre nella legge di stabilità un bonus proprio per le imprese che investono nel rinnovo dei macchinari, quindi proprio il tema di questa Emo Milano 2015. Ecco, Livia, in conclusione ci ricordi per cortesia, anche qui siamo evidentemente in un ambito di competenze tecniche, ma in una terra che è quella della Lombardia dove molte aziende possono essere interessate, quanto dura questo percorso? Assolutamente sì, dura da oggi fino a sabato. Da oggi fino a sabato. Grazie a Livia Zancaneri in collegamento dunque da Emo. Penso che la risentiremo con il lavoro, ne sono certo, anzi, che le abbiamo chiesto appunto di portare avanti, e dunque sì, le dichiarazioni, le comunicazioni ufficiali, ma anche e soprattutto prendere e tenere un po' il polso di quella che è una davvero un'attività essenziale e tipica. Non a caso avete sentito nella sua presentazione, ogni sei anni tra Germania e Italia, insomma le nazioni europee del grande manifatturiero. E con questo direi che è tutto. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il Papa dice niente compromessi, qui non è un Parlamento, mentre apre il sinodo della famiglia. Nobel per la medicina, premi alla lotta alle malattie della povertà, e ancora il disastro in Costa Azzurra, si cercano ancora tre dispersi. Stamattina infatti è stata trovata la 18ª vittima del disastro. Migrazione, il viaggio non si ferma, trovato su una spiaggia di Kos il corpo di un bambino. E ora la borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta Borse in diretta. E ci dice tutto Andrea Fontana, buongiorno. Buongiorno, una mattinata molto vivace in cui le borse europee hanno sfruttato la scia delle piazze asiatiche, molto bene Hong Kong e Tokyo, per mettere a segno un nuovo rimbalzo, un allungo del rimbalzo già fatto venerdì, nella prospettiva che il rialzo dei tassi americani sia spostato in là di qualche mese. Gli acquisti hanno premiato soprattutto i minerari e l'energia, non solo nelle piazze europee, ma anche Milano, dove Saipem, Tenaris e Eni stanno mettendo a segno delle performance molto brillanti. Milano sale del 2,5%, la migliore appunto Tenaris, nella prospettiva che ormai sia imminente il riassetto della società di servizi del settore petrolifero, società controllata da Eni. Saipem sale del 6,5%, Eni sale del 3,5%. Grazie ad Andrea Fontana. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque oggi abbiamo una programmazione, un clock un po' particolare in quest'ora. Tra pochissimo andremo in anticipo rispetto all'abitudine negli Stati Uniti, poi parleremo di trasporti nell'ultima parte appunto di questa ora, ma abbiamo ancora il tempo per completare un po' il nostro percorso delle notizie. Abbiamo avuto almeno un paio di approfondimenti su quelli che sono i temi economici industriali. Beh, ce n'è un altro che merita spazio: Rizzoli Libri passa a Mondadori per 127 milioni di euro. Attendendo l'ok dell'antitrust, sentiamo il servizio. Con il via libera all'operazione di cessione di Rizzoli Libri a Mondadori, arrivato nel fine settimana dai rispettivi consigli di amministrazione, RCS e Mondadori brindano in borsa. A Piazza Affari RCS guadagna oltre il 5% e Mondadori quasi il 4%. Dopo mesi di complesse trattative è nato il nuovo colosso dell'editoria libraria. Il prezzo dell'operazione è pari a 127,5 milioni di euro. La decisione della vendita della divisione libri è stata presa all'unanimità dal CDA di RCS. L'amministratore delegato Pietro Scott Iovane ha dunque proceduto alla firma del contratto con la D di Mondadori Ernesto Mauri. Mondadori, che possiede già Einaudi, PM, Sperling & Kupffer, Frassinelli ed Electa, si porterà a casa una serie di marchi prestigiosi. Oltre a Rizzoli e a Rizzoli International Publications, RCS possiede infatti Bompiani, Marsilio, Fabri, Burson, Zogno, Etas e tutta la divisione Education, più un portafoglio di autori di tutto rispetto, da Umberto Eco, Andrea De Carlo a Michel Houellebecq. Resta invece esclusa dalla vendita ad Elfi, che RCS cederà al socio Roberto Calasso. È un'operazione di cui siamo particolarmente orgogliosi, ha commentato Marina Berlusconi, presidente dell'Arnoldo Mondadori Editore. Grazie all'acquisizione di RCS Libri ora siamo pronti per una nuova fase di sviluppo, afferma invece in una nota l'amministratore delegato del gruppo editoriale di Segrate Ernesto Mauri, spiegando che si aprono così nuove prospettive di crescita. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E mentre scoccano le 13:36 minuti, io vi saluto, è tutto per questa edizione. Adesso, come vi ho anticipato, andiamo in America, ci risentiamo con gli aggiornamenti di GR24 a partire dalle 14. Un saluto da Gigi Donelli.